Eccoci pronti, benvenuti a tutti su Radio Oltrepò. Io sono il Mangia, parte ufficialmente la trasmissione live, il Mangia Show in diretta dalla nostra radio. Per voi ho preparato una scaletta musicale stupenda, con brani estrapolati da yamendo.com, da archive.org. La prima canzone è di Jazz Friends, questa band che si è unita per regalarci dei lavori pregevoli di jazz music, liberamente scaricabile su www.yamendo.com. Ascoltiamoci Jazz Friends. Che apre ufficialmente il Mangia Show erano Jazz Friends, alcuni grandi artisti che si sono riuniti per creare questa produzione prettamente jazz, artisti che collaborano col sito www.yamendo.com. Il titolo di questa canzone era Winter Blast. E ora andiamo avanti con Kammerer, Fly Like a Fly. Scusate, ma sono un po' costipato. Musica che viene dalla fredda Svezia, ma direi suono molto molto caldo. Fly Like a Fly, Kammerer. Camera con Fly Like a Fly, una canzone stupenda. Devo essere sincero, vorrei dirvi che mi sono masterizzato un paio di compilation di Camera che trovate in download free su www.yamendo.com. Mi sono masterizzato un paio di suoi CD e me li ascolto ogni tanto in macchina. Ottime sonorità, grande grande artista veramente. Giunti a questo punto vi ricordo i contatti per interagire col sottoscritto: www.andreamangiarotti.com. Quello è il mio blog dove potete, diciamo così, scrivermi, magari una mail, o semplicemente visionare il mio sito. E dopo Camera spazio a Felix JD con questo bel brano dance molto retro, Make Believe. Felix JD, Make Believe. Felix JD con questa canzone stupenda Make Believe. Trovate anche un album su www.yamendo.com cercate Felix JD, un album direi molto molto intenso, dal sapore retro, con delle canzoni che si rifanno per l'appunto alla musica di ieri, soprattutto degli anni 90. Ora cambiamo ancora una volta genere musicale, un artista pavese molto bravo, lui è Roberto Dalio, che ci presenta questo brano dal titolo Legend of the Scary Muffin, stupenda veramente, dalla musica dance alla musica un po' più ricercata e raffinata. Roberto Dalio. Siamo tornati in onda con la nostra musica, in precedenza Roberto Dalio con Legend of the Scary Muffin e ora invece Sounds Wall DJ Team con Sounds Wall dall'album medesimo, sempre estrapolato da www.yamendo.com. Mi scuso per la pausa, ma Devo essere sincero, sono andato a prendere lo sciroppo per la tosse e da un paio di settimane, insomma, mi ha, diciamo così, lasciato qualche segno di costipazione. Siete con il vostro Mangione nell'appuntamento del Mangia Show. Un saluto a tutti gli amici che si recano nelle discoteche a quest'ora. Buon ballo, ma sempre ovviamente con un po' di testa, un po' di cervello. Sounds Wall DJ Team. Killers, man. A word? Catch you coming out your fucking crib, nigga. Yeah, catch a fucking bullet, nigga. Ricordo che sono anche presente sui maggior parti dei social network, sia io che la radio, quindi basta cercarci, fare la ricerca su Twitter o Facebook e mi trovate, oppure ci trovate, c'è anche la radio, quindi fate la ricerca e aggiungeteci all'amicizia se magari ci seguite da Facebook, se invece ci seguite da Twitter leggete insomma le nostre news principali, possono essere frivole ma anche interessanti, importanti. Quasi che si apre l'angolo jazz della radio. Questo bel brano per voi. Sempre Jazz Friends di Yamendo.com. Questo brano direi stupendo. Buona serata a voi. Brano stupendo del Jazz Friends di Yamendo.com. Che cos'è Jazz Friends? Sono praticamente degli artisti che condividono la loro musica sul portale Yamendo.com e hanno creato due CD, mi sembra che siano due, di musica esclusivamente jazz, dove ognuno si esibisce in questo stile di musica come meglio sa fare con queste canzoni stupende. Il brano in questione è intitolato Let Me To The Dream di The Fraggle Sound, spero sia corretta la pronuncia. Bene, trovate tutto il materiale sul sito precedentemente citato, lo citiamo ancora perché insomma è nostra fonte di ispirazione musicale, www.yamendo.com, trovate insomma tutti i due CD da scaricare legalmente e gratuitamente, quello che mi preme sottolineare. Ora musica italiana di qualità con Irene. And

presidente. Millones de habitantes de África, Asia y América Latina se levantan al encuentro de una nueva vida e imponen su irrestricto derecho a la autodeterminación y el desarrollo independiente de sus naciones. Señor presidente, millones de habitantes de África, Asia y América Latina, presidente, se levantan al encuentro de una nueva vida, señor presidente, su irrestricto derecho a la autodeterminación y al desarrollo independiente de sus naciones. Señor presidente, millones de habitantes de África, Asia y América Latina se levantan al encuentro de una nueva vida e imponen su irrestricto derecho a la autodeterminación y el desarrollo independiente de sus naciones. Tu ti ricordavi, siete sempre all'ascolto del Mangia Show. Ridiamo ancora le coordinate per interagire con il sottoscritto, se vi va: www.andreamangiarotti.com. Questo è l'unico modo per entrare in connessione con il sottoscritto e con il programma The Mangia Show. In precedenza abbiamo sentito quel brano molto interessante di Juanitos, Samba de Che Guevara. Come precedentemente annunciato, insomma, un mito per i giovani di tutto il mondo che quando manifestano ci scappa sempre una bandiera del Che di qua e di là. Magari molti non sanno neanche chi è stato questo grande comandante, però è diventata una vera e propria moda, insomma, soprattutto quelli di sinistra, insomma, dicono che Che Guevara, eccetera, eccetera, però mi pare che non avesse una etichetta politica ben definita, insomma, Che Guevara. Andiamo avanti con un altro brano un po' più sul dolce, romantico, mieloso di Giuseppe Ranieri, quindi un cantautore italiano. Andiamo ad ascoltare Nostalgia. Thank you.

Andiamo avanti ancora con un brano direi molto molto allegro, The Original Music from Goa, India. Questa è Simple Samba. Bel brano molto molto happy conclude la trasmissione odierna del Mangia Show. Noi ci ritroviamo ancora qua, stessa radio, stessa ora, stesso programma. Io sono il Mangia, mi trovate su www.andreamangiarotti.com, li trovate tutti i link per Facebook e Twitter. Se vi va potete anche scrivermi una mail, insomma, per parlarci un pochino di voi, di che cosa state facendo in queste belle giornate. Magari siete al PC, insomma, fateci sapere se vi piace il programma e se vi piace la radio. Ancora una volta grazie a tutti, vi lascio con l'ultima canzone che fa anche da sigla finale. Scusate, mi sono un po' influenzato. Vi ricordo che al termine del Mangia Show vi riproporremo le medesime canzoni dalla prima all'ultima programmate all'interno della trasmissione senza alcuna interruzione, quindi ve le ascoltate senza il sottoscritto che vi parla sopra, così almeno potete anche apprezzare magari un po' di più anche la musica, non solamente lo show, se vi va. Quindi dopo di noi ripartono le canzoni in playlist quest'oggi senza alcuna interruzione di sorta e senza il sottoscritto che ci parla sopra. Vi lascio con la sigla finale, che è anche l'ultima canzone di Johnny Carrozza, italo-americano probabilmente. Brano stupendo dal titolo Deafening Moment, John Carrozza. Thank you.